Radio 24. Libera la voglia di fare. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Terremoto nel centro Italia, gli sfollati sono migliaia nei centri più colpiti, in provincia di Macerata, gran parte delle case è inagibile. 200 le repliche, nuove forti scosse questa mattina, la faglia è diversa da quella del sisma di fine agosto, ad Amatrice nuovi crolli, il governo stanzia 40 milioni di euro. Evasione dal carcere romano di Rebibbia, si calano con le lenzuola dopo aver segato le sbarre, sono in tre, due erano reclusi per omicidio, dallo stesso punto erano evasi altri detenuti. Il calcio, vincono Roma, Juventus e Napoli, ma i giallorossi perdono Florenzi che si rompe il crociato. Oggi l'operazione, almeno 4 mesi fuori. TV, stasera torna il Rischia Tutto, le domande cambiano, più attualità stretta, meno storia. Intervista a Fabio Fazio, sta cambiando il sapere degli italiani, dice. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere. Ampio spazio dedicheremo naturalmente in questa puntata al terremoto, sia in questa prima parte che nel nostro giro per l'Italia, e dunque iniziamo. Iniziamo dal quadro generale, tra un attimo andremo nelle zone colpite, ma vediamo di fare un punto su quello che è successo e sui numeri che abbiamo fino ad ora. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Diciamo subito che l'ultima forte scossa è stata avvertita stamattina, erano passate da poco le 10.30, magnitudo 4.4 con epicentro a Castel Sant'Angelo sul Nera, ma nel complesso, lo dicevi nei titoli, sono oltre 200 le repliche minori registrate fra Marche e Umbria dopo le due violente scosse di ieri sera. Lo ricordiamo, magnitudo 5.4 e 5.9 che sono state sentite chiaramente in buona parte dell'Italia centrale. Già dalla notte la macchina della Protezione Civile sta lavorando a pieno regime nei molti comuni della zona che hanno riportato danni, a partire da quelli di Visso, di Ussita e dello stesso Castel Sant'Angelo. La priorità chiaramente è quella di fornire aiuti e trovare una sistemazione a chi è rimasto senza casa, agli sfollati. Si calcola che soltanto nelle Marche siano fra i 2 e i 3.000. A causa del freddo non potranno essere sistemati nelle tendopoli, come era successo per il terremoto di agosto, e chiaramente il clima rigido renderebbe molto difficile questa soluzione. Per questo si sta valutando il loro trasferimento verso la costa, ha fatto sapere il capo della Protezione Civile Curcio. Sopralluoghi poi sono in corso in queste ore, chiaramente per verificare l'agibilità di scuole ed edifici pubblici e per mettere in sicurezza tutte le strutture che sono state lesionate dal terremoto. Dopo i blackout di ieri sera sarebbero stati invece quasi del tutto risolti già i problemi alla rete elettrica, mentre resta ancora critica la viabilità perché ci sono ancora diverse strade interrotte a causa di frane o di edifici pericolanti. Simone. E grazie a Andrea Viali per questo quadro generale. Dunque ci spostiamo sul territorio, nelle zone più colpite. Andiamo da Daniele Morini per un racconto. Daniele, buongiorno innanzitutto. Sì, dove ti trovi? So che sei stato là tutta la notte, insomma hai dormito in queste zone colpite dal sisma. Ti chiedo di darci un quadro di quello che vedi e di quello che sei riuscito a capire. Dormire assolutamente poco, naturalmente, perché tutta la notte abbiamo cercato di capire qual era la dimensione di quello che sta accadendo dalle 19.10 di ieri pomeriggio qui tra Visso, Ussita e Preci. Intanto grossi problemi di viabilità ieri e questa notte, acuiti anche dalla pioggia battente che per tutta o quasi la notte ha continuato a scendere qui nelle zone, in questo triangolo lungo l'Appennino Umbro-Marchigiano. Ecco, la situazione è questa, che dopo questa notte di pioggia ora c'è un bel sole da questa mattina, e questo favorisce quello che in termine tecnico i vigili del fuoco chiamano triage, un po' come al pronto soccorso quando si va in ospedale, decidono quali sono le emergenze rosse, quelle gialle e quelle verdi, per capire dove intervenire subito, dove rimuovere macerie, dove poter intervenire in un secondo momento. Questo è il lavoro che stanno facendo i vigili del fuoco. Noi siamo in questo momento proprio davanti alla zona rossa di Visso, stanno entrando squadre di vigili del fuoco per scortare residenti che, usciti di corsa ieri pomeriggio ora stanno rientrando per cercare di recuperare quel minimo di vestiario, coperte o altri generi che possono servire per affrontare queste primissime ore di emergenza, mentre continua a crescere il campo allestito presso la zona della Croce Rossa qui di Visso, con tutte le forze dell'ordine e la protezione civile impegnate appunto nell'allestimento di questo primo ricovero, primo rifugio per gli sfollati. Tantissimi gli sfollati, ma tantissimi anche i danni. Per fortuna nessuna vittima, pochi feriti, ma tanta gente che non ha più la propria abitazione. Ecco, questo è il quadro nelle zone dell'ultimo terremoto. Questo è il quadro che hai visto finora, Daniele. Poi so che hai anche sentito delle persone, non sei stato solamente a Visso, dici sì, qualcosa. Sì, esatto. Siamo andati anche a Ussita questa notte, dove la situazione dei crolli è un po' migliore, diciamo, se si può usare questo termine, rispetto a Visso, che probabilmente è appunto la zona più colpita. E lì proprio questa notte abbiamo incrociato il sindaco di Ussita, Marco Rinaldi, abbiamo chiesto a lui di spiegare com'è la situazione dalle sue parti. Le case sono, gli immobili sono compromessi, tutti compromessi, fortemente compromessi, perché questo sisma che ha avuto l'epicentro qui a Ussita con una magnitudo che dicono 5,9, e la preoccupazione fortissima è sulla stabilità dei pendii dove insiste la faglia, perché lì ci possono essere dei crolli di materiale lapideo che potrebbero compromettere gli abitati delle due frazioni sottostanti, Vallazza e Capovallazza, e questo è il motivo per cui questa sera li abbiamo fatti spostare. Daniele? Eccoci, sì, continuano appunto le operazioni di prima emergenza. Questa mattina è arrivato qui, nelle zone terremotate, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Nel pomeriggio invece è atteso il primo ministro Matteo Renzi, che dovrebbe arrivare almeno a Visso e a Camerino, da quello che si sa, insomma, contattando e parlando con la protezione civile. Questo è un po' l'andamento della giornata. Al momento della situazione. Allora, Daniele, io intanto ti ringrazio, torneremo a collegarci con te più avanti nel corso della trasmissione, intorno alle 13.35, per avere un altro punto. Abbiamo sentito Ussita, abbiamo sentito, e non ne abbiamo parlato, ma le agenzie battono le dichiarazioni del sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, che parla di un paese letteralmente in ginocchio. Abbiamo detto di Camerino, abbiamo detto appunto di Visso, ma naturalmente il terremoto ha colpito in un'area molto più vasta. Abbiamo cercato di fare un punto. Noi non abbiamo mai chiuso il comitato operativo comunale, quindi ho sempre fatto riunioni e verifiche, ma sai, non è possibile fare una prevenzione, perché la faglia poteva aprirsi tra un mese, un anno o non sappiamo quando. A parlare è il sindaco di Fabriano, Giancarlo Sagramola. Le scosse hanno fatto qualche danno anche qui. E sì, mi dice, ci avevano detto che dopo il terremoto del 24 agosto poteva aprirsi un fronte sismico più a nord. 8 le persone ferite, 6 già dimesse. La situazione è complicata, racconta il primo cittadino, perché nella notte non è stato possibile capire quali fossero davvero i danni. Ora è il momento delle verifiche e le scuole sono le prime della lista. La situazione delle scuole è stazionaria. Vorrei ufficialmente smentire delle bufale su crolli di licei, di tetti, delle scuole che sono tutte in piedi, le stiamo verificando tutte. La paura è stata incontenibile, tanti hanno preferito dormire fuori casa, anche perché alcuni danni sono stati rilevati anche nel centro storico. Stanotte hanno dormito al palazzetto dello sport circa 45 persone, mentre invece adesso stanno chiedendo più letti, perché con il giorno la gente che non ha dormito è stata tanta, migliaia di persone sono rimaste a dormire nelle auto, stanno cercando un po' di ricovero. Questa notte cercheremo di mettere a terra ancora degli altri. Meno complessa la situazione a Macerata, dove comunque la paura è stata tanta. Anche qui il primo pensiero è la scuola. Il sindaco Romano Carancini. Noi stiamo effettuando una serie di ricognizioni per tutto ciò che attiene alla scuola. Oggi la priorità sono le scuole, le strutture, capire immediatamente quale sia il grado di danno, ammesso che ci sia. Nessun danno ad Urbino, almeno per il momento, e nemmeno ad Assisi, città miracolata, dice il sindaco. Poi ci sono piccoli centri come Montefortino, messi in ginocchio dal sisma di 2 mesi fa. Ieri le scosse hanno buttato giù quel che era rimasto in piedi. 2 mesi buttati, dichiara affranto il primo cittadino, Domenico Ciaffaroni. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo al fronte di quello che sta facendo il governo. Come avete sentito, Renzi oggi sarà nelle zone colpite dal terremoto. Intanto arriva un primo stanziamento. Vincenzo Miglietta, buongiorno, ciao. Sì, buongiorno. Governo che si è riunito per esaminare nel dettaglio quanto accaduto ieri sera tra Marche ed Umbria, in continuo contatto con la macchina della Protezione Civile, nel caso specifico con Curcio e con il commissario per la ricostruzione Errani, che da questa mattina sono per un sopralluogo nei centri più colpiti dal terremoto, centri che saranno visitati nel pomeriggio anche dal Presidente del Consiglio Renzi. In particolare il Premier dovrebbe recarsi a Camerino e Visso. Renzi ha annullato di conseguenza i suoi precedenti impegni in Veneto e sta seguendo tutto da Palazzo Chigi. La prima decisione del governo, allora, come anticipavi da studio Simone, è quella di estendere lo stato di emergenza per il nuovo terremoto. Sono stati stanziati con un decreto 40 milioni. Ulteriori provvedimenti saranno inseriti con maggiore calma una volta individuate le priorità nel decreto terremoto varato il 24 agosto e che, come ha spiegato il ministro dell'Interno Alfano, deve essere ancora convertito in legge. Ricostruiremo tutto, ha aggiunto poco fa Errani. Fonti dell'esecutivo fanno notare intanto che il nuovo evento sismico mette in primo piano ancora di più le rivendicazioni in sede europea del governo in difesa della manovra. Il fronte immigrazione, con i continui sbarchi e l'emergenza per la ricostruzione che vede da ieri allargare l'area di intervento, giustificano, secondo Palazzo Chigi, l'extra deficit. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Come vi dicevo, di terremoto torneremo a parlare più avanti. Ci parlava Vincenzo Miglietta di Europa, ed è proprio in Europa che andiamo adesso, perché sembra vicino l'accordo per il trattato di libero scambio col Canada dopo che il no della regione belga della Vallonia aveva fermato tutto il processo. Sergio Nava, eccoci. Buongiorno. Realmente clamorosa, se vogliamo anche paradossale, la notizia arrivata nelle ultime ore dal Belgio. I negoziatori hanno raggiunto un accordo sul CETA, il trattato di libero scambio euro-canadese, fatto deragliare non più di 6 giorni fa dal blocco del Parlamento regionale della Vallonia, con il contorno di lacrime, lo ricorderete, della ministra del commercio canadese. Ebbene, proprio nel giorno in cui era prevista, cioè oggi, la firma solenne tra Unione Europea e Canada, la presenza del premier canadese Trudeau, firma saltata a causa del fallimento negoziale, il premier belga Michel ha annunciato che le parti hanno trovato l'intesa. La dichiarazione sarà inviata formalmente al presidente europeo Tusk e alla Commissione Europea. È un accordo molto importante per le imprese e l'attività economica, ha detto Michel, un accordo che vale 12 miliardi di euro. Ora l'ultima parola è ai parlamenti. Le assemblee di Vallonia, della comunità francofona e di Bruxelles si riuniranno oggi o al più tardi domani per ratificare l'accordo. Il premier vallone Magnette, la cui opposizione aveva fatto saltare tutto, ne è uscito trionfante. Ciò che abbiamo ottenuto è importante per i valloni e per tutto il mondo. Intanto ora si tratterà di vedere i dettagli. È tutto. Grazie dunque a Sergio Nava per questo aggiornamento. Il Parlamento europeo oggi ha assegnato il premio Sakharov 2016 a Nadia Murad e la Mia Haji Bashar, due donne yazide rapite nel 2014 dagli jihadisti dello Stato Islamico in Iraq insieme a migliaia di altre donne costrette poi alla schiavitù. Una volta libera, Nadia Murad ha fatto conoscere nel mondo le persecuzioni contro gli yazidi. È stata anche candidata al premio Nobel per la pace ed è ambasciatrice dell'ONU per la dignità dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani. Cambiamo argomento e veniamo alla giornata del risparmio di oggi. Sta seguendo i lavori Alessandra Schepisi. Alessandra, eccoci. Sì, buongiorno. 92esima giornata del risparmio organizzata dall'ACRI, che si è aperta con il messaggio inviato dal capo dello Stato. Occorre assicurare la tutela del risparmio, ha detto Mattarella. Lo sforzo deve essere quello di tradurlo in investimenti per rilanciare lo sviluppo. Investimenti che, secondo il governatore della Banca d'Italia Visco, rimangono il principale punto di debolezza della nostra economia, la cui ripresa è ancora stentata. A pesare, secondo Visco, anche il debito molto elevato che comprime i margini per interventi pubblici di sostegno, mentre sempre per il numero uno di Palazzo Cocco sono esagerate le osservazioni su quanto sia grave lo stato di crisi delle banche italiane. Presente qui anche il ministro dell'economia Padoan, anch'egli ha sottolineato la debolezza della crescita in Europa, dove nonostante gli sforzi le prospettive restano deboli ed esposte a significativi rischi al ribasso. In particolare poi in Italia l'economia sta crescendo in un contesto difficile, mentre la politica del governo, ha detto il ministro, prosegue nella strada stretta di sostegno allo sviluppo e consolidamento di bilancio imposta dall'elevato livello di debito. Questo l'obiettivo della manovra in sostanza, ha detto Padoan, che tra l'altro contiene uno sforzo ingente sui migranti a beneficio dell'Europa. La manovra ha comunque ricevuto il plauso dell'ACRI, l'associazione delle fondazioni di origine bancaria e delle casse di risparmio. Il presidente Guzzetti ha lodato in particolare le misure per investimenti e competitività. Infine ha parlato del fondo Atlante per le banche. Poche adesioni, il fondo è a rischio. E da Roma è tutto. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi. Andiamo alla cronaca da Roma, anche nella confusione post terremoto, con alcuni detenuti spostati da Camerino a Rebibbia. È successo che 3 detenuti sono evasi. E caccia all'uomo a Roma, dove 3 detenuti sono evasi dal carcere di Rebibbia calandosi dal muro di cinta con delle lenzuola arrotolate e legate a delle scope. I 3 uomini sono albanesi, 2 sono in cella per omicidio, uno con una condanna all'ergastolo e l'altro con fine pena 2041, mentre il terzo è in carcere per sfruttamento della prostituzione. Secondo le prime ricostruzioni, i 3 detenuti sono evasi intorno alle 6 del mattino, dopo aver segato le sbarre della cella che si trova al piano terra del carcere. I 3, un 35enne, un 40enne e un 38enne, hanno appeso una maglietta per coprire il varco aperto nell'inferriata e piazzato sagome di cartone nei letti. Controlli e posti di blocco sono stati attivati ovunque per cercare gli evasi. Al momento è ancora da accertare se i 3 sono andati via a piedi o se c'era un complice ad attenderli fuori dal carcere di Rebibbia. I sindacati della polizia penitenziaria intanto denunciano carenza di personale e inefficacia dei sistemi di sicurezza e allarme. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E proprio con i sindacati di polizia penitenziaria torneremo più avanti a parlare di questa vicenda, perché appunto l'evasione è avvenuta da un punto dal quale c'era stata un'altra evasione. Siamo al calcio, il punto dopo la giornata di campionato di ieri, tanto dal punto di vista della classifica quanto dal punto di vista dell'infortunio di Florenzi, Dario Ricci. Eh sì, caro Simone, per un campione che abbiamo appena ritrovato, cioè Claudio Marchisio, che è rientrato proprio da un infortunio simile, un altro lo perdiamo e credo a questo punto per almeno 4 mesi, nella migliore delle ipotesi, è proprio il romanista Florenzi. Per lui rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, verrà operato domani ed è una grave perdita per una Roma che resta in scia della Juventus grazie al bel successo in trasferta sul Sassuolo, trascinata dal capocannoniere Dzeko. L'anno scorso non la beccava mai, quest'anno 10 gol in 10 partite, così come fece Gabriel Batistuta nell'anno dello scudetto. Juventus che resta in testa a più 2 sulla Roma, Juventus che ha battuto per 4-1 la Sampdoria, ma ecco che già sabato c'è l'incrocio più stuzzicante e anche più favorevole per i giallorossi, Simone, perché a Torino si sfidano Juventus e Napoli, e quindi Napoli che è terzo a quota 20 e quindi la Roma potrebbe approfittarne. Nei quartieri alti intanto si affaccia anche la Lazio, trascinata anche in questo caso dal suo bomber, il rinato Ciro Immobile. Ti ringrazio, grazie a Dario Ricci per questo aggiornamento. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi, prima di ritornare sui temi del terremoto, abbiamo già in linea la nostra Adriana Fracchia che ci racconterà di una mostra che si inaugura a Milano questa sera, la mostra di Basquiat. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato ampiamente del terremoto che ha colpito il centro Italia, ci siamo occupati del trattato di libero scambio tra Europa e Canada, dell'evasione dal carcere romano di Rebibbia, abbiamo poi anche parlato di calcio e della giornata di campionato di ieri. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e prima di tornare nelle zone colpite appunto dal terremoto, avevamo lasciato in sospeso la nostra Adriana Fracchia che ha seguito la presentazione, sarà stasera in realtà, poi della mostra di Basquiat al MUDEC a Milano. Adriana, eccoci, vai. Sì, buongiorno, sono proprio qui al MUDEC, al Museo delle Culture di Milano, dove oggi apre questa mostra dedicata a un grande protagonista della scena artistica americana e mondiale degli anni Ottanta, Jean-Michel Basquiat, artista maledetto, morto a soli 27 anni nel 1988, ma che è riuscito comunque a costruire una leggenda attorno alla sua figura e alla sua arte. Ragazzo prodigio di origini haitiane, è stato capace di intrecciare l'energia urbana di New York con le sue radici africane. Questa esposizione qui al MUDEC, che sarà aperta fino al 26 febbraio 2017, è curata da un suo amico intimo, Jeffrey Deitch, curatore ed ex direttore del MoCA di Los Angeles, e da Gianni Mercurio, saggista e grande curatore italiano, ed è promossa anche dal Comune di Milano e da 24 Ore Cultura, che ne è il produttore. Un'esposizione che, a differenza di quella curata sempre da Mercurio 10 anni fa, che era una retrospettiva, fu curata alla Triennale di Milano, lo ricordiamo, questa mostra invece presenta circa 140 lavori realizzati tra il 1980 e il 1987, opere di grandi dimensioni ma anche disegni, foto, collaborazioni con il suo grande amico Andy Warhol, che provengono in larga parte da una collezione privata, quella di Joseph Mugrabi e di alcuni altri prestatori privati. davvero una mostra imperdibile. Basquiat amava tra i tanti temi quello della scrittura, diceva uso le parole come fossero pennellate, e allora niente di meglio che venire a vederla da questa sera al Mudeca Milano. Grazie, grazie Adriana Fracchi. Adesso noi torniamo nelle zone colpite dal terremoto. Voglio salutare Emanuele Tondi, che è un geologo all'Università di Camerino, ma è anche il sindaco di Campo Rotondo di Fiastrone. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Tondi. Allora, prima di parlare con lei, la nostra Valeria De Rosa ha appena raccolto la voce del presidente della provincia di Macerata, Antonio Pettinari. Sentiamo il suo racconto e poi veniamo da lei. La situazione purtroppo è peggiore addirittura di come l'abbiamo immaginata fin da immediatamente dopo la scossa delle 19 ieri sera e poi la successiva delle 21. Ci sono paesi interamente distrutti o pressoché distrutti. Le prime necessità dove si stanno concentrando la protezione civile, la regione Marche e le istituzioni locali è su due fronti. Il primo, quello degli aspetti sociosanitari, cioè dove è necessario trasferire malati dagli ospedali. L'altro obiettivo è contemporaneamente di evitare, così si sta indirizzando naturalmente in un'interlocuzione con i singoli sindaci che stanno programmando già nel primo pomeriggio assemblee pubbliche in modo da informare i cittadini, perché si tratta di un trasferimento, di un esodo di migliaia e migliaia di persone. L'orientamento è di trasferire verso la costa, sulle attività ricettive, sugli alberghi della costa. Questo dunque il presidente della provincia di Macerata. Dunque, come si diceva, con Emanuele Tondi anche nel suo doppio ruolo, innanzitutto da sindaco di Campo Rotondo di Fiastrone, voglio sapere qual è la situazione da voi. Allora, noi siamo un piccolo comune della provincia di Macerata, che nel precedente terremoto eravamo fuori dal cratere, anche se circondati da comuni più danneggiati, e ora purtroppo entriamo anche noi in questo cratere sismico, nel senso che abbiamo con questa scossa avuto dei danni importanti anche a Campo Rotondo di Fiastrone. Anche agli edifici privati, immagino, e anche pubblici o no? Edifici privati in primis. Diciamo che anche noi, tutto il paese, il comune, in particolare il centro storico, era stato restaurato dopo il terremoto del 97, quindi miglioramento sismico, adeguamento sismico, e questo si è visto, nel senso non abbiamo avuto crolli, ma solo danni in alcuni edifici. Adesso stiamo valutando appunto quanti ne sono agibili e inagibili. Sì, perché questo poi lo ricordiamo sempre, questo vale un po' dappertutto, vale in particolare per i centri storici, lo abbiamo detto molto nei giorni immediatamente successivi al terremoto di agosto, quando si fanno lavori di ristrutturazione, specie appunto in zone come quelle italiane, dove non puoi fare edifici come quelli giapponesi appunto, che si ricostruiscono da zero, quello che puoi fare è evitare che le case crollino sulle persone, non puoi evitare che le case vengano danneggiate, e questo è inevitabile, soprattutto quando si tratta di edifici storici. Quello che le volevo chiedere invece nel suo ruolo di geologo è questo. Lei rilasciò qualche intervista all'indomani del terremoto di fine agosto. Disse: la prossima zona che potrebbe essere colpita è la zona a nord, indicando una zona abbastanza precisa che poi è quella che è stata colpita dal terremoto di oggi. Ora, chiariamo bene. I terremoti non si possono prevedere, questo lo diciamo una volta per tutte. Nel senso che probabilmente si può capire dove avverrà, ma il quando è impossibile da prevedere. Però le chiederei come ha fatto questa previsione e che cosa vuol dire dal punto di vista geologico. È una faglia diversa? Che cosa rappresenta? Che rischi ci sono? Allora, nel senso che qui stiamo parlando ovviamente di forti terremoti. I forti terremoti vengono generati dalle grandi faglie. Dove sono le grandi faglie lo sappiamo. Quindi una volta che si attiva una faglia grande, generando un grande terremoto, quella faglia lì non si riattiverà più per i prossimi anni, decenni, anche centinaia d'anni, ma si attiveranno quelle vicino. Dopo il terremoto del 97 nell'Umbria Marche, poi quello del 2009 dell'Aquila, la zona centrale, quindi tra Amatrice e Norcia, era la zona candidata al futuro terremoto forte, perché ci sono appunto delle falle importanti. E questo l'avevamo detto dopo il 2009. Poi c'è stato il terremoto ad Amatrice, ad Accumoli, ed era rimasta diciamo come zona che poteva di nuovo generare un terremoto forte, proprio quella tra Norcia, se vogliamo, Preci e Visso, cioè la zona tra il terremoto del 24 agosto del 2016 e quello precedente del 1997 a Corfiorito nell'Umbria Marche. Quando non si può sapere, infatti, per esempio, dopo il terremoto dell'Aquila sono passati 6 anni prima di riattivarsi la faglia di Amatrice e del Monte Vettore, e qui sono passati solo 2 mesi. Chiaramente. Si è attivata dunque una nuova faglia, e questo ci aiuti a capire. Questo porta all'attivazione di altre ulteriori faglie, perché può ben capire, no, che gli abitanti delle zone, e lo sa meglio di me perché è sindaco di un comune della zona, è esattamente quello che si stanno chiedendo in questo momento. Sì. Allora guardi, mentre dopo il terremoto, ecco, appunto dell'Aquila e del terremoto anche del 24 agosto, potevamo indicare una zona in cui si sarebbe potuto verificare un forte terremoto, perché era presente una faglia che non si era precedentemente attivata. Ora zone con faglie importanti che possono generare quindi terremoti forti non le conosciamo in questa zona, quindi al confine tra le Marche e l'Umbria le faglie importanti si sono attivate tutte. Quindi quello che ci aspettiamo, quello che mi aspetto almeno io, è che in questa zona adesso andiamo incontro a una caratterizzata in particolare da aftershocks, quindi terremoti di assestamento, che possono comunque essere importanti, perché il terremoto principale è stato forte, quindi fino anche a magnitudo intorno a 5 possiamo avere terremoti di assestamento, ma non nuove faglie che si attivano, perché almeno sulla base delle nostre conoscenze, grandi faglie non ci sono. Mi scusi, per capire meglio, 97, 2009 e adesso 2016, le faglie sono quindi 3 sostanzialmente quelle che si sono attivate, le grandi faglie? Beh, diciamo che sono 4, però qui parliamo di un sistema molto interconnesso che va appunto da Colfiorito fino all'Aquila, costituito da più segmenti di faglie. Nel momento in cui si attiva una di queste, una delle principali, tutta la zona intorno viene perturbata e quindi le altre faglie interagiscono con quella che si è attivata, attivandosi a sua volta. Quindi si parlano di più segmenti di faglie appartenenti ad un unico sistema. La ringrazio, grazie ad Emanuele Prego. Tondi per essere stato con noi, e le auguro evidentemente un buon lavoro anche per il suo ruolo di sindaco. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi torneremo nei luoghi colpiti dal sisma e poi parleremo anche di questa incredibile evasione a Rebibbia. Hanno tagliato le sbarre e sono scesi con le lenzuola, come la banda Bassotti, tra l'altro da un punto dal quale c'era stata un'altra evasione solo pochi mesi fa. Ne parliamo con un sindacato di polizia tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto, metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Il terremoto nel centro Italia, gli sfollati sono migliaia, tra i 2 e i 3.000 nelle Marche. Nei centri più colpiti, in provincia di Macerata, gran parte delle case è inagibile. Proseguono i problemi alla rete, soprattutto della viabilità, quelli con la rete elettrica sembrano risolti. Sono state almeno 200 le repliche, nuove forti scosse questa mattina. La faglia è diversa da quella del sisma di fine agosto, come avete appena sentito. Ad Amatrice ci sono stati altri crolli, il governo ha stanziato 40 milioni di euro. Le altre notizie: l'evasione dal carcere romano di Rebibbia, si calano con le lenzuola dopo aver segato le sbarre, sono in 3-2, erano reclusi per omicidio. Il calcio: vincono Roma, Juventus e Napoli, ma i giallorossi perdono Florenzi che si rompe il crociato, oggi l'operazione almeno 4 mesi fuori. La borsa. Borse in diretta. Dovrete accontentarvi di me, oggi i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, non ci sono. Un quadro di giornata che vede complessivamente negative, anche se di poco, le borse europee, in particolare Parigi che cede lo 0,16%, mentre Francoforte si è ripresa, guadagna lo 0,17%, Londra giù dello 0,05%. Meglio fa Milano, con il FTSE MIB che guadagna lo 0,46% e il FTSE All Share lo 0,42%. A cosa è dovuto questo rialzo? Innanzitutto ai titoli bancari, alcuni titoli bancari, Monte dei Paschi, Paschi, più 3,82%, Pop Milano, Popolare di Milano, più 3,10%, Popolare Emilia Romagna che guadagna il 2,22%, Banco Popolare il 2,03%, ma anche Fiat Chrysler che dopo i dati dei giorni scorsi, la trimestrale dei giorni scorsi continua ad andare bene, più 3,06%, e soprattutto ST Microelectronics più 9,41% oggi dopo aver diffuso i dati sulla trimestrale e appunto target positivi, target di bilancio positivi. In negativo troviamo Atlantia che cede l'1,48%, Saipem l'1,35%, Snam lo 0,7%, così come Generali, mezzo punto percentuale di calo per Prismian, CNH lo 0,43%. È tutto. Effetto giorno. Prima di proseguire il nostro giro per l'Italia e andare a Roma, una risposta dovuta ad un ascoltatore che chiede perché ci sono delle differenze di misurazione nei terremoti. Per esempio tra il Geological Service degli Stati Uniti e il nostro Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, appunto l'ultima scossa per l'INGV è 5.9, da tutte le altre parti 6.1. Innanzitutto ci sono delle differenze di misurazione, però evitare che si vada a parare dove forse si vuole andare a parare, voglio ricordarvi questo. Gira su internet la bufala secondo la quale non sono previsti risarcimenti per terremoti inferiori ai 6 di magnitudo. È una bufala questa, perché il riferimento in questo caso è alla scala Mercalli, che è una scala che misura i danni, contro il riferimento che in questo caso invece è quello della scala Richter. Quindi l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non è parte di un complotto per non far arrivare i risarcimenti ai terremotati, ma semplicemente misura su una scala scientifica, mentre la scala Mercalli, che spesso anche abbiamo utilizzato, è una scala che misura solamente i danni. Questo giusto per chiarezza. Veniamo a questa incredibile evasione da Rebibbia. Tagliate le sbarre di ferro, segate le sbarre di ferro, si sono calati fuori con delle lenzuola, sembrava un fumetto di Topolino con la banda Bassotti, anzi Paperino per essere esatti. Siamo in linea con Massimo Costantino, che è segretario generale della FNS CISL, è un sindacato appunto di polizia penitenziaria. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Se non fosse che rispetto a un fumetto di Paperino non c'è niente da ridere, perché tra questi ci sono evase tre persone, di cui due in carcere per omicidio, uno per concorso in omicidio e l'altro è proprio un ergastolano. Costantino, com'è possibile una cosa di questo genere? Allora, è possibile un evento del genere perché vi è carenza di personale. Ora dobbiamo tenere presente che ieri è stata una giornata particolare dovuta all'ingresso di 40 detenuti anche dal carcere di Camerino per gli eventi del terremoto. Sì. Mi scusi però Costantino, allora io capisco la posizione del sindacalista, però c'è anche un altro elemento, che da là sono evase altre persone. Io non posso pensare che non esistano dei controlli elettronici che si possono mettere in campo perché queste cose vengano evitate. I controlli ci sono, però dobbiamo tenere presente che c'è solo un agente per tre reparti e quindi i detenuti sono circa 200. Bisogna tenere presente che vi sono sistemi di antiscavalcamento e di allarme che non sono efficienti e che comunque vanno rinforzati, ma questo è un problema economico perché non ci sono soldi per apportare degli incrementi di sicurezza sul carcere. Ma quelli che erano evasi precedentemente erano evasi dallo stesso punto o mi sbaglio? Allora, la scorsa evasione, quella del 14 di febbraio, è avvenuta 100-200 metri prima rispetto a quello odierno. La modalità possiamo dire che è simile, quello sicuramente. Sempre le lenzuola? Lenzuola e scope, quindi aste di scopa legate fra di loro. Aste di scopa legate tra di loro e poi ci si cala. Con l'ausilio anche di altre lenzuola. Ci si cala giù sostanzialmente, insomma. Quindi è un problema di personale e anche un problema di sistemi che non funzionano, come ci diceva. Sistemi che non funzionano ma che necessitano di essere rinforzati. Però più volte l'amministrazione centrale ha problemi economici probabilmente, quindi pur se vi sono richieste in tal senso dalla direzione locale, in questo caso il nuovo complesso Rebibbia, i tempi sono lunghi che non collimano con la sicurezza purtroppo. La ringrazio, grazie a Massimo Costantino, segretario generale della FNS CISL. Noi rimaniamo a Roma. La vicenda ormai la conoscete, un giudice del lavoro ha deciso che i sindacati non devono pagare la multa da 20.000 euro per cosa? Per l'assenza di massa dei vigili a Capodanno. Non possiamo dire lo sciopero selvaggio dei vigili a Capodanno. In sostanza non pagherà nessuno. Il giudice dà ragione ai sindacati, è annullata la multa del garante da 20.000 euro. E noi siamo in linea con Giuseppe Santoro Passarelli, che è il presidente dell'organismo di garanzia sugli scioperi. Buongiorno. Buongiorno, innanzitutto vorrei precisare che il ricorso l'ha fatto la CISL e non la CGIL. Poi per quanto riguarda la sentenza, è ovvio che noi non siamo abituati a commentare le sentenze prima di conoscere le motivazioni, perché l'autorità di garanzia d'altra parte è perfettamente consapevole che la solidità dell'impianto probatorio, cioè della difesa, che ha portato avanti davanti al giudice è assolutamente ineccepibile. Quello che però lascia perplessi, a mio avviso almeno, è che di fronte a persone che si sono assentate, sia pure a loro dire per ragioni di malattia, però poi rimangono tutti impuniti e soprattutto il danno, a parte enorme per la collettività e anche per quei lavoratori che invece sono stati disponibili. Senta, Presidente, voi farete ricorso? Sì, noi faremo ricorso perché appunto riteniamo giusto procedere. Ora vedremo naturalmente però le motivazioni, è importante vedere le motivazioni di questa sentenza. Perché la prima sentenza riconosciamo le motivazioni e abbiamo preparato un appello che naturalmente non è possibile divulgare ora perché rientra nella procedura giurisdizionale, quindi non tocca a noi diffonderlo prima che sia discusso davanti al giudice. La ringrazio, grazie al garante della legge sugli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli. A chiudere un collegamento breve con Daniele Morini, ancora dalle zone colpite dal terremoto. Daniele, eccoci, vai. Sì, siamo sempre a Visso, ma abbiamo raggiunto un po' quello che è il quartier generale dei Vigili del Fuoco. Con noi il dottor Ciannelli, dei Vigili del Fuoco della Toscana. Ecco, qual è la situazione in questo momento, dottor? E buonasera a tutti. Abbiamo terminato l'attività di ricerca di potenziali vittime sotto le macerie, ora iniziamo l'attività di assistenza alla popolazione. Sono tanti i bisogni, vero, che in questo momento esprimono le popolazioni, che ieri pomeriggio poi sono state tolte dalle proprie abitazioni all'improvviso? Sì, si tratta di tanti piccoli bisogni che però sono essenziali per la vita delle persone. Medicinali, recuperiamo vestiario, tutto quello che è necessario per la sussistenza, per la prima sussistenza. Grazie, buon lavoro, grazie a voi studio. Grazie anche a Daniele Morini per questo aggiornamento. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.